Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il primo giorno di scuola ho visto apparire sulla scalinata la maestra, la persona che mi avrebbe in seguito fatto decidere di insegnare proprio per essere il suo opposto. Ciao, mi chiamo Daniela, vivo a Nova Milanese, ho 54 anni, sono sposata e ho due figli. Ho frequentato l'istituto magistrale e sono una maestra elementare. La vita umana è avvolta nelle storie a un punto tale che siamo ormai desensibilizzati al loro strano e ammigliante potere. Motivo per cui nell'intraprendere questo viaggio dobbiamo innanzitutto indagare quella patina di consuetudine che ci impedisce di notare la straordinarietà di questa sua fazione. Tutto ciò che dobbiamo fare è aprire un libro che narri una storia, uno qualsiasi, e prestare attenzione all'effetto che sortisce su di noi. Prendiamo ad esempio Nel cuore dell'oceano di Nathaniel Philbrick. Prima di offrirvi però un passaggio di questo libro, voglio che sappiate che cosa vi aspetta, perché Philbrick è un vecchio stregone scaltro, usa la penna come una bacchetta magica. L'effetto è di trascinare la mente dei lettori catturandone lo sguardo e di teletrasportarli attraverso il tempo e per mezzo mondo. Se si vuole resistere a questo incantesimo, occorre concentrarsi. Non perdete consapevolezza della sedia su cui vi trovate, o del rumore del traffico in sottofondo, o della sensazione materiale di tenere questo libro fra le mani. Dunque, siamo alle primissime pagine del racconto, è il 1821. La baleniera Dufen sta bordeggiando al largo della costa del Sud America e i marinai, originari tutti dell'isola di Nantucket, scrutano senza sosta il mare in cerca dei soffi d'acqua che annunciano la presenza della loro preda. Il capitano della Dufen, Zimri Coffin, individua all'orizzonte un'imbarcazione incredibilmente piccola per il mare aperto, che sobbalza sulle onde. Si volta verso il nocchiere e gli grida di accostare. E qui Philbrick scrive così: sotto lo sguardo attento di Coffin, il timoniere avvicinò il più possibile la nave alla malconcia scialuppa. La baleniera, data la sua forza d'inerzia, oltrepassò subito la lancia, ma nei pochi secondi in cui svettò sopra di essa, gli uomini dell'equipaggio videro una scena che non avrebbero mai più dimenticato. Prima notarono delle ossa umane, sparse sui traversini e le tavole di legno, come se la scialuppa fosse la tana in alto mare di un feroce animale antropofago. Poi videro i due uomini. Erano rannicchiate alle estremità opposte della barca, la pelle coperta di piaghe, gli occhi che sporgevano dalle orbite infossate, la barba incrostata di sale e di sangue. Stavano succhiando il midollo delle ossa dei compagni morti. Sono sempre alle 16:40 secondi, ma prima di cominciare con il racconto di oggi, con la puntata di oggi, io vorrei chiedervi al volo, senza farvi passare la memoria di quello che vi ho appena letto. Siete in macchina probabilmente, siete in studio, ma poco fa, mentre leggevo questi passaggi da questo libro, da cui vi dirò subito da dove arriva, voi non eravate al lavoro e non eravate in macchina, eravate su quella baleniera in mezzo all'oceano a vedere quella scena. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma ovviamente è Voi siete qui. Noi raccontiamo storie comuni, non chiediamo alta letteratura, noi vogliamo semplicemente raccontare pezzi di vita delle persone che hanno voglia di condividere con loro, un pezzo di vita che possibilmente in qualche modo ti rappresenti, proprio come la storia di oggi di Daniela, che ci racconta un minuscolo frammento della sua esistenza che però ha stravolto la sua vita, perché per colpa di una maestra lei ha deciso di fare la maestra. Ma il pezzo che vi ho letto è tratto da un libro che si chiama L'istinto di narrare, che come sottotitolo ha questa frase: come le storie ci hanno reso umani. Questi sono quei saggi che ogni tanto Tiziano mi segnala e che mi vado a comprare, perché lavorando con le storie c'è sempre da capire come, dove, perché lavorano nella nostra mente e nella nostra vita. E l'inizio di questo libro cita proprio questo passaggio di Nel cuore dell'oceano, che è il romanzo tra l'altro che poi Melville si aggrappa, insomma il romanzo che ispira Melville per scrivere Moby Dick, che racconta una storia vera, più o meno quella che vi ho raccontato, di una baleniera che segue una balena. Ma l'abilità di questo scrittore è proprio quella lì, quella di farvi essere là, e la sua abilità, ma è l'abilità delle storie. Noi raccontiamo storie tutti i giorni che sono storie ovviamente molto più comuni di questa. Non ci sono morti, non ci sono scialuppe in alto mare, però spesso ci sono, sì, a volte sì, giustamente Tiziano fa così con la mano, a volte succede, a volte ci sono i morti, e come, perché appartengono alla vita, e anche scialuppe ci sono ogni tanto, però sono anche semplicemente storie di vita quotidiana, e noi ogni giorno proviamo a farlo, perché continuiamo a pensare che sia una cosa utile, che serva, e semplicemente perché è una cosa che intrattiene, che per mezz'ora ti fa andare da un'altra parte. 349-238-6666. Prima di cominciare con la storia di oggi di Daniela, stiamo preparando un'estate rocambolesca, direbbe un conduttore, io invece dico semplicemente stiamo preparando un'estate di Voi Siete Qui, che sarà in onda per tutto il mese di luglio, e vogliamo fare una cosa che non ci capita di fare molto spesso, ed è chiedervi delle storie a tema. È vero che abbiamo cominciato a farle, ma questa volta vorremmo che ci mandaste, che rifletteste per un attimo e poi ci mandaste delle storie, una a testa, scegliete un tema qualunque, su quattro temi che affronteremo quest'estate. La prima sono i mondiali di calcio. Una storia che riguardi una partita che avete visto sul divano di casa vostra o dall'altra parte del mondo. L'altro tema sono delle avventure vere e proprie che vi sono successe, delle cose, sì, rocambolesche, che sono finite bene o finite così così, ma che hanno proprio a che fare con l'avventura. Visto che sono 100 anni dalla prima guerra mondiale, storie di guerra, come spesso ci arrivano, storie di nonni magari che vi raccontano storie appunto legate alla guerra. E infine, questo più o meno lo frequentiamo, storie di viaggio. Se state partendo, se siete tornati, se avete in mente di andare da qualche parte quest'estate e avete vissuto delle esperienze di viaggio, questi sono i quattro temi che vi ricordo velocemente: storie legate ai mondiali di calcio, storie legate ad avventure che vi sono successe, storie di guerra e storie di viaggio. L'indirizzo è sempre quello: Voi Siete Qui, @radio24.it. Da adesso in avanti noi aspettiamo quelle storie, da adesso in là invece raccontiamo la storia di Daniela. Quante motivazioni diverse ci spingono verso una professione piuttosto che un'altra? Per me la scelta è stata la naturale conseguenza di come avevo vissuto il periodo della scuola elementare nei lontani anni 60. Dunque, questo periodo non è stato tra i più allegri della mia vita. Il primo giorno ho visto apparire sulla scalinata la maestra, la persona che mi avrebbe in seguito fatto decidere di insegnare per essere proprio il suo opposto, specialmente nel modo di rapportarsi ai bambini. Rosa Nicci Altieri era anziana, per come la vedevo allora. Era bionda, magra, zoppa, con un bastone lucido che la sosteneva. Indossava una gonna di colore verde bottiglia e una giacca uguale, con due piccole chiusure fatte a farfalla di pelle nera. Era rimasta altera, là in alto, in cima alla scalinata, mentre noi eravamo sotto, con la mano stretta alla mamma. Le sue prime parole furono: togliete dalla cartella gomma e temperino, perché qui non si sbaglia, perciò la gomma non serve e le matite si temperano a casa ogni sera. La mia maestra era piuttosto ossuta, alta, magra, aveva un bastone perché zoppicava, era sempre vestita nello stesso modo, d'inverno con un cappotto beige e questo tailleur verde con questi fiocchettini neri, ed era sempre molto austera, molto arcigna, non aveva un sorriso. Era proprio una tutta ad un pezzo. Questo caloroso benvenuto è stato il primo segnale d'allarme che ho sentito sotto forma di un rimescolio nella pancia. E noi, a noi alunni, è stato subito richiesto di indossare, oltre al solito grembiule, un colletto rigido e alto, quasi dovesse sostenere il collo, e un cravattino di maglia blu. La sua cattedra era rialzata da una predella di legno, al cui centro troneggiava la sedia. Regalo di altri alunni di un ciclo passato. Era di legno, imbottita di pelle marrone con bottoni bronzei, e portava intestata un'incisione: alla nostra cara maestra. Tutti i giorni, durante la ricreazione, che trascorrevamo rigorosamente seduti, si faceva portare dal bidello una tazza di camomilla che sorseggiava, mentre a noi erano concessi 3 biscotti al plasmon, l'unica merenda che potevamo portare. Le lezioni si svolgevano in assoluto silenzio. Interminabili dettati, pieni di buoni sentimenti, lodi alla patria, a Dio, al risparmio, al sacrificio, tabelline da recitare come rosari e studio di lunghissime poesie incomprensibili. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali. Ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, permettevi di restar seduti. In fila dovevamo poi arrivare alla cattedra e salire fino a lei per mostrarle il nostro lavoro. Nell'attesa del suo responso il cuore batteva freneticamente. E poi, se il risultato non le era gradito, non c'era altro da fare che posare le mani sulla cattedra e aspettare la prima bacchettata, e sperando che fosse la sola. I castighi cui eravamo sottoposti mi fanno ancora rabbrividire. In ginocchio, con la sedia in testa, tirate di orecchie, di capelli, teste sbattute contro la lavagna. E come potevano non venirmi grandi mal di pancia? Come non desiderare ardentemente il suono della campanella liberatrice? A parte tutta questa tirannia, c'era almeno una cosa bella. Il sabato mattina potevamo scegliere di sfogliare uno di quei magnifici libri di fiabe che provenivano dalla biblioteca. Erano tutti ricoperti da una carta color violetto. Le illustrazioni erano coloratissime. C'erano draghi, principesse, paesi fatati. Ne sento ancora l'odore. Mi ricordo le fiabe, quelle arabe, tipo Le Mille e Una Notte, perché c'erano questi geni che uscivano dalla lampada, queste donne velate. Era un'atmosfera orientale che io non conoscevo proprio. Leggere quindi ha iniziato ad essere un piacere che mi ha accompagnato e salvato dai momenti di noia e di tristezza. L'opportunità di vivere altre storie, altre vite, di riscoprirmi in tanti pensieri che mi sono regalati con le parole più appropriate. Fortunatamente le scuole medie hanno rappresentato la liberazione da tutta quell'ansia. E poi finalmente, che cosa scegliere se non l'istituto magistrale? Ecco perché ho scelto di insegnare, per diventare l'esatto opposto della maestra Rosa Nicci Altieri. Sicuramente non sono un insegnante senza mancanze, ma sono sicura che i miei alunni vengono a scuola serenamente, che non hanno paura di sbagliare, perché è possibile e a volte inevitabile, e sanno che li accoglierò con un sorriso e con l'attenzione che si meritano. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. I'm old and cold and tired and useless and toothless, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. Ha una faccia molto allegra Daniela nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito radio24.it alla pagina Voi siete qui. È appoggiata a un muro di piastrelle che potrebbe essere un posto in Spagna o in Portogallo, forse Barcellona. Ha i capelli biondi, degli occhiali da sole e sembra terribilmente, ma proprio terribilmente, Meg Ryan in Harry ti presento Sally. Però Daniela, noi ti avevamo detto come ti avremmo chiamato. Di solito succede così, no? Che facciamo una storia e poi chiamiamo l'ascoltatore. Lo facciamo più o meno dal 2000, dal 1990, da 3 anni più o meno. E quindi Margherita Hina, che a cui è difficile scappare, ti sicuramente ti avrà detto: ti chiamiamo alle 16:15 in punto, ti chiamo da un numero sconosciuto. Dice sempre così a tutti e nessuno manca. Daniela, se evidentemente hai avuto altro da fare, lo capiamo, perché non è che non succede niente. Però se invece ci stai ascoltando, magari prendi in mano il cellulare, che deve essere nascosto da qualche parte, perché ti stiamo chiamando e non rispondi. 349-238-6666, visto che qualcuno mi scrive, ma non ho capito, le storie di mondiali solo se le abbiamo giocati le possiamo mandare? Non capisco se è una battuta questa, chiaramente no, le storie di mondiali sono legate a, visto che cominciano i mondiali, faccio un passo indietro. Ci sono i mondiali di calcio quest'anno e visto che noi cerchiamo di affrontare le cose dal nostro punto di vista, dal raccontare le storie, vi chiediamo di raccontarci un episodio, se c'è, se non c'è non fa niente, siamo amici lo stesso, che ha a che fare con una partita dei mondiali che avete visto alla televisione ovunque. Vi ricordate ad esempio la storia che avevamo raccontato, credo un paio d'anni fa, di quell'ascoltatore che era finito in Pakistan durante i mondiali perché non si ricordava più e vede una partita dell'Italia in un albergo in mezzo al deserto pakistano, se c'è un deserto in Pakistan, in mezzo insomma al nulla, con i pakistani che lo guardano e ridono per come esulta. Ecco, una storia come quella, non dovete essere in Pakistan Pakistan, ma semplicemente eravate con vostro zio Nando che ha fatto qualcosa di particolare in quella partita. Voi siete qui, @radio24.it. Vi ricordo i temi: sono i mondiali di calcio, storia legata a quello, un altro è storia di guerra, che di solito insomma ci si augura siano accadute ai nonni e non ad altri in tempi più recenti, proprio perché il 2014 è il centenario della prima guerra mondiale. E poi storia di avventura, vi ricordo insomma storie di cose rocambolesche che vi sono accadute, e poi storia di viaggi, quello è più facile perché estate e si parte. Ma incredibilmente abbiamo recuperato Daniela, che è qui al telefono con noi. Pronto Daniela? Ciao Matteo, mi spiace, guarda, sono qui che ascolto la trasmissione e il telefono non so come mai non ha squillato. Vabbè, ma non fa nulla, quindi siamo riusciti a recuperarti perché ti ho chiamata alla radio. Certo. Benissimo. Daniela, ma era un incubo? Era un incubo, lo è stato davvero per tanto tempo e poi ho continuato ancora perché mi è capitato di vederla poi in giro questa persona, e sebbene fossi ormai cresciuta e facessi già la maestra, ma quando l'ho vista ho sentito ancora la stessa sensazione. Guarda, una cosa terribile. Ma ad esempio quando l'hai rivista l'hai salutata, hai cercato di avvicinarla? No. Devo essere sincera, ho fatto finta di non vederla e me ne sono andata da un'altra parte. Perché scusa, tu proprio scrivi in ginocchio con la sedia in testa, tirate di orecchie, teste sbattute contro la lavagna. Sì, non era una cosa di tutti i giorni, la testa sbattuta, ma ricordo un compagno che aveva qualche problema. C'è il tuo cane che abbaia intanto, Daniela. Sì, infatti. Faceva fatica a comprendere, lei si vede che insomma alla fine si esasperava, allora questo povero ragazzino ogni tanto andava a finire con la sua testa contro la lavagna. Sì. Daniela, tu che maestra sei? Insomma sei un po' più libertaria, ci pare di capire... Ma anche se adesso ho dovuto un po' tirare i remi in barca, nel senso che ormai la scuola è cambiata tanto, ci sono un po' di problemi un po' dappertutto tra i tagli, poi i genitori che sono facilmente gestibili a volte, e poi tieni conto che i bambini comunque devono essere indirizzati, per cui assolutamente queste cose no, però quando c'è da alzare la voce, c'è da essere un po' autoritaria, devi farla per forza, non puoi, devi sempre mediare, diciamo. Certo, sono più difficili quando sono piccoli o quando arrivano in quinta elementare? Guarda, in prima è terribile perché sono da una parte adorabili, ma dipendono da te per tutto, per cui ti senti proprio la chioccia che si porta dietro questa marea di bambini che ti chiedono cose impensabili. Sì. E quindi è molto difficoltoso, mentre invece in quinta, io ho una quinta adesso, sono stanchi, diciamo, hanno bisogno di fare questo salto e cominciano a trattarti, non ti dico con sufficienza, ma insomma dimostrano che ormai sono pronti per andare, no? Per cui da un altro punto di vista sono un po' più impegnativi, ecco. Daniela, tu è un mestiere che consiglieresti il tuo a una ragazza che ha voglia di fare affrontare questo percorso? Ma è difficile entrare perché ci sono i concorsi. Beh no, certo, insomma al netto di quella difficoltà. Sì, assolutamente, cioè come rapporto umano è bellissimo e se sai prenderlo con una certa filosofia e riderci sopra vengono fuori quelle cose. Ecco, lì bisognerebbe leggere scrivere un libro con le cose che dicono i bambini, perché sono simpaticissime, ci sono delle cose, io ho un gruppo di insegnanti con cui lavoro da tanto tempo, ci divertiamo da matte, cioè proprio... Immagino. Daniela, prima di salutarti c'è un messaggio che ci chiede quanti anni ha la maestra, ma non evidentemente perché è incuriosito dalla tua età, ma per capire a che anni si riferiva la storia che ci hai raccontato. Guarda, io sono nata nel 1960, per cui le scuole elementari, la prima l'ho fatta nel 66. Eh no, perché sembra più una cosa da ventennio, sì, effettivamente, guarda, quello che ci hai raccontato. Ma lei era una maestra secondo me da ventennio. Immaginiamo. Daniela, ti ringrazio molto, devo chiudere perché purtroppo abbiamo perso i primi due minuti, ma grazie ancora. Scusa, grazie. Figurati, grazie a te. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Chiudiamo e vi ricordo storie di mondiali, di avventura, di guerra, di viaggio per un'incredibile estate. Con voi siete... Scusatemi, ci ho provato, non mi è uscita benissimo. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Grazie a Daniela. La stella di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Voilà. Una splendida estate, con voi siete qui. Ciao, mi chiamo Alessandro, abito a Nova Milanese, ho 57 anni. La storia di lunedì è la mia e parla di Esidio e Rosetta. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.